di sinescu ne passa da facci di basso la conasci tu non può morire quattro uomini di panza gana leggia prescia raggia tra i nedu corpa all'urbigna malaminit gingoli mingoli all'annigato per girincotto li guado li Pigliano voglio tu